Remoli Radioactive. Remoli Radioactive. La fogna alla scarga, join sei reef. E tu mate si a Brasil. Il prede sei alle carti, i pesci all'ave con il detersi, i balenti tu sei morto e vivi, coppa curadino ti sei arrivato alle visico. Radioactive, esulta per cani esplosivi, anche i conigli che nel preservativo, anche i conigli che nel preservativo, Remoli Radioactive, Remoli Radioactive, sono inquinata i peggi in giro. Tutti inquinata i fermi nei cenci. Remoli. I ratti è grosso come locomotivi, coppa dura di notizieri televisivi, coppa dura di notizieri televisivi. Remoli Radio Hockey. Su da terra gani esplosivi, i balenti in questo mor che vive, anche i conigli che nel preservativo, Remoli Radioactive, coppa guerra di notizie televisive, i pesci all'ave col detersivo. Bestia all'avven con il detersivo, il tumate si è abrasivo, il prete se alle cattive, Remoli Radioactive. Sono inquinata i pezzi nei gengi. Sono inquinata i pezzi nei gengi.